Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Amore, chiedimi se sono felice. Sei felice? No. Perché? Perché è l'ultima puntata. È l'ultima puntata, signore e signori. Poi l'ultima puntata di chiedimi basta. Se sono felice. In realtà per poi per sempre non ci troverete mai per più sempre, nessuna parte. Insomma, non si sa. Torneranno a settembre. Torniamo. I nostri eroi. Che ne sai? Io torno. Hai firmato il contratto? No. E allora? Torno anche senza contratto. Anche se non me lo fanno firmare. Non si sa. Torno comunque. No, io torno. Ci saremo. Beh, insomma, abbiamo fatto più di un anno assieme, perché abbiamo cominciato il 4 luglio dell'anno scorso. Vi abbiamo seguito nelle vacanze dell'anno scorso, non ci siamo più fermati fino ad oggi. Insomma, un po' di vacanze servono anche a noi. Però a parte questo, abbiamo imparato tante cose, sia sul cane, sia grazie al cane, no? Quindi sì, il mondo dalla prospettiva sì. del cane è stato un guardare alla felicità del cane, ma lui ci ha insegnato tante cose su noi stessi e anche su altri animali. Ma come sei bravo, Vaira. Sono bravo? Meno male. Allora, senti, scusa, adesso non mi ricordo più che cosa volevo dire, per esempio. Ecco. È perché tu... Senti scusa che? Perché tu mi intimorisci. Scusa. Allora, abbiamo con noi... abbiamo no, con parliamo noi... di una cosa molto bella, interessante, seria, cioè, drammatica. Tipo? Cosa? È quella che parliamo con Giada. Ma non sono mica rincoglionita io. Ma è possibile che c'è il fidanzato che pensa di stare allora, a... No, è uno scherzo, no? E boom, allora, l'allero. E boom, l'allero. Allora, abbiamo con noi Giada Geraci, Animal Trainer. Ciao, Giada. Ciao, Angelo. Ciao, Rosita. Ciao, Giada. Vedi come mi tratta, è un negriero. Sì, devi vedere come mi tratta lei. Cioè, ma meno male che voi che ci ascoltate lo sapete. Ma per piacere, ma appunto. Vabbè. Allora, perché invitare Giada Geraci? Giada Geraci è educatore cinofilo, perché ha fatto la scuola Teen Dog in quell'occasione che io l'ho conosciuta, ma ha anche moltissima esperienza nell'addestramento degli animali, per esempio come Harambe, ha lavorato con i leoni marini, attualmente stai lavorando con quali animali, Giada? Adesso lavoro da 3 anni con gli scimpanzé. Con gli scimpanzé. Che meraviglia. Ora, che invidia, Giada. Vedi, quindi, a parte il fascino di questa cosa, quindi come ha cominciato, come le è venuto in mente, come la vita di un animal trainer. Scusa, quanti anni hai soprattutto? Io ho 33 anni, ho cominciato quando ne avevo 18. Ah, ecco, comunque c'è una voce di 20 anni, quindi è già un po' brava. Figurati. E quindi poi ci può anche svelare il dietro le quinte, per esempio, di fatti accaduti come quello di Harambe. Certo. Quindi sentiremo certo. la sua opinione su questo. Ma innanzitutto tu com'è che hai cominciato? Cioè, 18 anni, come ti è venuto in mente di fare sta roba dell'animal trainer? Io ho iniziato appunto prestissimo, a 18 anni. Da quando ricordi ho sempre voluto lavorare con gli animali e in particolare con i delfini. Ah, io penso un po' che la causa scatenante sia stato mio papà, che era biologo e mi propinava spesso libri sugli animali, documentari. Bello. E quindi inconsciamente mi ha un po' indirizzato. Anche se mio papà era geometra, faceva la stessa cosa. Infatti devo dire che no, invece abbastanza... i miei sono cantante attore, cantante attrice, e hanno detto che non dovevamo fare assolutamente sto mestiere alla rovescia. Senti, scusa Giada, no, siccome io un mio sogno, dico sempre che prima di passare a miglior vita mi piacerebbe veramente poter nuotare nel mare, nell'oceano con i delfini. Tu questo l'hai fatto? In mare aperto no. Ah. Non lo reputo sicuro, sinceramente, perché in un branco di delfini comunque ci possono essere dei cuccioli che il branco tendenzialmente potrebbe proteggere da noi. Ah. Di conseguenza io quello non lo farei per scelta personale. Senti, ma però tu l'hai fatto, scusami. L'ho fatto in struttura, quindi in delfinari, assolutamente sì. Senti, ma che cosa rispondi tu a tutti quelli che ti dicono i delfinari non dovrebbero esistere, basta ste robe qua? Anch'io io penso così. che ci sia bisogno di una corretta educazione per salvaguardare e conservare le specie che l'uomo comunque sta distruggendo. Perché attraverso, vabbè, adesso parliamo anche di scimpanzé, parleremo di gorilla, attraverso comunque in quel caso la deforestazione, piuttosto che l'olio di palma, piuttosto che il bracconaggio, piuttosto che il bushmeat, stiamo distruggendo. Cos'è il bushmeat? L'utilizzo della carne. Sì, sì, sì. Perché a causa dell'allevamento di animali da carne deforestiamo, sì, per, certo. per produrre poi mangime da dare a loro, campi in cui consumiamo troppa acqua. Sì, ma sì. Quindi correggimi se sbaglio, tu dici o fermiamo la deforestazione, tutte queste cattive abitudini, o non abbiamo scelta, dobbiamo creare delle oasi, chiamiamole così, dove tenere gli animali. Sì, Perché quello che preoccupa me, Rosita, come tantissime persone che ci staranno ascoltando, è ok, l'oasi, cioè il santuario, certo, dove tu recuperi magari, sai, salvi i leoni dal bracconaggio, li metti lì, eccetera. Ma se poi, che ne so, il delfino deve essere costretto a sentire la musica tutti i giorni, la gente che applaude, tutte queste robe qua, no, si stressa. E poi, cioè, no, ma poi io avevo letto che una delle cause di malattia, insomma, i delfini in cattività vivono pochissimo perché ci sono del cloro, delle cose nella piscina che li crea un sacco di funghi e di infezioni alla pelle, non so se hanno la pelle. Cioè, per noi è importante avere te perché, secondo me, questo anche per far capire a casa, no? Che uno immagina che tutti quelli che lavorano appunto con questi animali, visto che è così, allora vuol dire che sono dei farabutti. Invece io conosco Giada e so che non è così. Certo. Cioè, quindi per noi è un'occasione di dare voce a chi non ce l'ha mai. Cioè, sono tutti quanti a parlare di queste strutture, di questi delfinari, di queste cose qua, ma nessuno chiede a queste persone come la realtà dei fatti, no? Ecco perché ci interessava conoscere la tua opinione. Diciamo che quello che noi sosteniamo sempre e continuiamo a dire è che per fare questo lavoro è necessario che gli animali stiano bene, ok? Certo. Quindi il nostro scopo principale è che gli animali stiano bene. Okay. Quindi facciamo di tutto, cioè noi passiamo il Natale con loro, il Capodanno con loro, non ci sono feste, noi possiamo passare anche 13 ore insieme a questi animali. Ovviamente attraverso staff di veterinari, staff di biologi, controlliamo anche non soltanto il punto di vista comportamentale dell'animale, quindi non vediamo soltanto che comportamentalmente non presenti stereotipie o nevrosi e quindi stia bene a livello comportamentale, ma controlliamo anche, per esempio, non sono una veterinaria, ma questo lo possono confermare i miei colleghi, i livelli di cortisolo. Okay. Il sangue, okay. Perché il cortisolo è un indicatore dello stress. Allora Giada, siccome abbiamo un blocco di un paio di minuti, ci vediamo tra poco così continui a spiegarci queste cose. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Oh, stavamo parlando con Giada Geraci. Sì, che ci ha corretto sul Bushmeat nel frattempo, esatto, che c'era la pausa. Così per informarvi bene, visto che Giada è informata. Giada, che cos'è allora precisamente il Bushmeat? È il consumo di carne di animali selvatici terrestri. Ovviamente parliamo di zone come Asia, Africa, Sud America. Ok, ok. Anche l'utilizzo per esempio di carne di scimpanzé. Oh, Madonna. Madonna. Sì, che poi mi ricordo tempo fa, no, quando avevamo detto a Bekov, ma come fai ad andare in Cina ad insegnare che quelli si mangiano la carne di cane? E lui dice, perché che differenza c'è con gli Stati Uniti che mangiano la carne di bovino? Cioè, cioè, non ce ne sono differenze. Allora, quindi Giada, dicevamo, per chi si è collegato adesso, è un animal trainer, lavora con animali come gli scimpanzé, ha lavorato con i leoni marini, eccetera, ci stava raccontando della realtà di queste strutture, queste tipo oasi delfinari che ospitano gli animali, e loro per poter lavorare con questi animali devono assicurarsi che questi animali stiano bene, giusto? Assolutamente sì. Ok. È la parte fondamentale. Senti, ma tu quali metodi usi per addestrare? Cioè, io mi immagino appunto l'addestramento di uno scimpanzé, poi a che cosa serve? Cioè, perché lo scimpanzé deve essere addestrato da te? Ok, fondamentalmente a niente, a meno che non vogliamo controllare lo stato di salute degli animali a livello in modi del tutto volontari, ok? Quindi attraverso il medical behavior, quindi l'addestramento di comportamenti medici veterinari. Per esempio? Per esempio un ecocardio, come un prelievo di sangue, come semplicemente una disinfezione di una ferita. Okay. Perché io, se devo disinfettare la ferita di uno scimpanzé o fare un prelievo di sangue, effettivamente, cioè, o lo blocco, non so che cosa, qual è l'alternativa al tuo lavoro? La sedazione. Lo devo sedare completamente, però ovviamente poi con la sedazione magari vado a sballare dei valori, vado. E poi ovviamente se dare un animale, sappiamo, non è una pratica, ma così. Io volevo capire una cosa, ma tu cioè, ma voi non fate però spettacolo poi con questi animali qua? No. Ah, ok. Quindi è una cosa diversa, cioè tu parli di oasi dove recuperi animali in difficoltà e che non possono più essere reinseriti nel loro habitat naturale perché per vari motivi non sopravviverebbero? Parlo di quello, ma parlo anche di giardini zoologici che adesso vengono chiamati come centri di tutela specie minacciati, questo perché devono far parte a livello europeo di una rete che tuteli queste specie minacciate e tenti anche il reinserimento in natura. Ah, okay, perché comunque come ultima cosa tentate il reinserimento in natura. Come per esempio nel caso del bisonte europeo piuttosto dell'ibis eremita, sono animali che si sta cercando di reinserire in natura. Ok. Mm-hmm. Senti, quindi che tipo di metodi utilizzi? Cioè, uno si chiede, vabbè, ma che c'entra il prelievo di sangue? Che cosa fai tu per addestrare lo scimpanzé? Parte tutto ovviamente da rinforzo positivo. Non lavoriamo mai attraverso punizioni, ok? Quindi viene tutto fatto attraverso... Quindi non c'è violenza, non c'è coercizione, ovviamente, perché poi coercizione no. Con uno scimpanzé sarebbe anche difficile fare. Infatti, non c'è privazione di cibo, come molti sostengono, non può esserci, non si creerebbe un rapporto di fiducia reciproco. Ecco, vedi. Ok. Ma e voi, che visto che tu sei molto vicina al mondo degli scimpanzé, che analisi vi siete fatti di quella notizia legata ad Harambe, a quell'esemplare meraviglioso? Qui c'è da aprire apriamo. Allora, cioè c'è chi dice Harambe poteva essere sedato invece che sparato. Beh, io ho sentito un video, ho sentito un audio di un certo Marchesini, poi se si chiama così, dove accusa, dice che sono stati degli incompetenti, che andava sedato e che loro che chi lavora in questi zoo dovrebbe entrare, avere la facoltà di avere confidenza con l'animale. Ma avere confidenza con un scimpanzé di quanto pesava? 130 kg? Di un gorilla di 130 kg, così non credo che sia... No, non è facile. Io sono rimasta molto male da quello che ho letto sul web. Ovviamente però la gente non sa, e questa è l'occasione per farle conoscere, bravo, quello che pensiamo, no? Esatto. Allora, io vorrei partire dalla, se possibile, dalla prima affermazione, quindi di sedare questo animale. Sì, okay? Sì. Intanto Harambe era un gorilla di 180 kg, ecco. Un maschio dominante del gruppo, Silverback si chiama, che da ortogramma è deputato a far cosa? A proteggere il branco da eventuali esterni. Quindi anche lì cade un bambino all'interno del suo reparto. Cosa tenta di fare Harambe? Proteggere il gruppo. Certo, quindi va a vedere lui per primo che cosa sta succedendo. Certo. Partiamo dal presupposto che questi sono tutti momenti molto concitati. Certo. E inducono comunque l'animale a uno stato non di calma, ma di aggressività e di agitazione per la presenza di questo esterno all'interno del suo reparto. Certo. In più ci sono dei visitatori urlanti, allarmati, che agitano ancora di più questo animale. E cosa sarebbe successo? Allora, io sparo un dardo ad Harambe e lo sedo. Non è la cosa ottimale già per quanto riguarda un protocollo di teleanestesia, perché normalmente la teleanestesia, quindi sparare il dardo, viene effettuato in un ambiente ipostimolante, quindi privo di stimoli, certo, proprio per permettere al farmaco di fare effetto in uno stato emotivo di calma dell'animale, certo, non di agitazione. Perché in se più... c'è in circolo adrenalina, agitazione, eccetera, non ovviamente il farmaco magari ne viene rallentato l'effetto. Assolutamente sì. In più, l'animale appena colpito dal dardo non è che cade in sedazione profonda immediatamente. Ok? L'animale colpito dal dardo può scatenare una reazione che si chiama aggressività rediretta, nei confronti del bambino, che è una situazione abbastanza probabile. Eh sì, perché cioè, magari quello che la gente si immagina è che io sparo il dardo e fa immediatamente effetto, eppure se facesse effetto magari cadrebbe sul bambino. Assolutamente 180 kg di gorilla su un bambino se fa immediatamente effetto. Se non fa immediatamente effetto, una delle reazioni del gorilla sarebbe potuta essere quella di prendere il bambino magari e aggredirlo. Ma da quello che mi stai dicendo tu, quindi è stato inevitabile doverlo uccidere? Allora, io non conosco l'esemplare, ok? Bisogna anche conoscere gli individui che si hanno davanti. Però, come dice ha sottolineato il direttore dello zoo di Miami, io lì ho una scelta da fare nel più breve tempo possibile. Certo. Ok. Mm-hmm. Salvare il bambino o cercare con dei metodi palliativi di toglierglielo dalle mani. Mm-hmm. Ok. Lì hai veramente pochissimi secondi per ragionare. Ma esistono dei metodi palliativi per togliere? Cioè, ci sono? Il problema è risolvere la problematica in tutta sicurezza senza danneggiare il bambino. Secondo me, dalla mia esperienza, non c'erano altre soluzioni. Ah. Ok. Il problema è che alcuni hanno detto che l'animale mostrava dei comportamenti esplorativi e parentali verso il bambino, ok? Uh-huh. Quindi lo esplorava, perché c'è un momento in cui Arambè controlla i pantaloncini del bambino, uh-huh, sembra che lo accarezzi. Però c'è un video completo dove si vede che questo comportamento non era del tutto esplorativo, perché se ne siamo accorti in molti di quelli, uh-huh, che lavorano con le antropomorfe. Arambè stava utilizzando il bambino per fare un display. Cioè? Il display è un comportamento agonistico, uh-huh, che serve da parte delle antropomorfe per intimidire i cospecifici e non, attraverso l'utilizzo magari di oggetti come possono essere dei rami, dei sassi, che vengono sbattuti, okay, o trascinati ripetutamente nell'ambiente. Quindi diciamo che io, Arambè, voglio far vedere a tutti quanto sono forte, voglio intimidire, e utilizzo degli oggetti che sono nel mio territorio, come per esempio appunto dei legni, dicevi tu, oppure questo bambino qui, secondo alcuni etologi, era appunto utilizzato da Arambè per mettere in mostra la sua forza o cose del genere, giusto? Sì, assolutamente sì. Infatti c'è una parte del video dove si vede proprio Arambè che prende il bimbo e lo comincia a trascinare. Vedi. Solo lì rischiava di ferirlo seriamente o di farlo morire. Certo. Senti, però allora la domanda che ci si fanno tutti è, e che Rosita ha fatto secondo me anche giustamente, ma che ci faceva lì in uno zoo un esemplare di questo tipo? Cioè, è tutta la situazione che è complicata, ma non è solo quello che ci faceva lì, come è potuto dove stava la madre del bambino, come è potuto un bambino cadere giù in una gabbia come questa, purtroppo, insomma, di cose superficiali se ce ne sono un po'. E la fine, sì, è ovvio che se sì, la fine inevitabile era quella lì di ammazzarlo, un esemplare come questo, non abbiamo un esemplare. Cioè, non sarebbe più logico, se io devo tutelare una specie, far sì che non ci sia lo zoo con tutti i visitatori che vanno negli zoo, eccetera, eccetera, ma che questi animali siano un pochino più trattati meglio, no? Senza che la gente li vada a osservare. Allora, intanto volevo rispondere a Rosita, se è possibile. Sì, anch'io mi sono posta quella domanda. La madre dov'era? Ok? Sì. E com'è possibile che un bambino cada all'interno di un reparto? È allucinante questa cosa. E lì bisognerebbe valutare la struttura dello zoo. Quindi lì non so risponderti perché non ho visto. Non la faceva te già. Cioè, okay, sono domande che non mi aspetto una risposta da te. Sono domande che tutti si fanno. Poi, ovvio, ci sono mille cose, uno dovrebbe fare una struttura fatta bene. Prima abbiamo parlato a volte nelle trasmissioni parliamo anche che se uno vuole veramente tutelare l'animale e vuole tutelare chi lavora con l'animale o chi va a visitare quest'animale, uno deve usare dei metodi che ci sono nel rispetto di tutti quanti, degli animali, di chi li vuole andare a visitare, di chi li cura, di chi cerca di salvaguardarli. Spesso le cose sono fatte con superficialità perché bisogna fare il minimo sforzo per avere il massimo profitto, e poi dopo succedono disastri come questi dove uno è costretto a fare una scelta che qualunque scelta facevi in questo caso era drammatica. Assolutamente sì, perché io mi metto nei panni comunque dei ragazzi che hanno lavorato con Arambè tot anni, esatto, e deve essere un dolore allucinante, perché quello che ti trasmette un antropomorfa, io penso che raramente un altro animale te lo possa trasmettere. Io ho lavorato con diversi animali, veramente guardare negli occhi uno scimpanzé è un'emozione, un coinvolgimento pazzesco. Esatto. Quindi tu dici, per aver fatto questa scelta, evidentemente erano proprio messe le strette. Ma certo, ma quello ci credo. Senti, grazie Giada, è stata preziosa la tua testimonianza. Grazie, Giada Geraci, animal trainer. Vedi, alla prossima, Giada. Quindi vedi, abbiamo avuto la possibilità di sentire una persona che dentro quelle situazioni ci sta, e io ci tenevo tanto perché, sai, ne sentiamo di tutti i colori, tutti quanti esprimono giudizi, e non si dà mai voce invece a chi di questi animali si occupa davvero ogni giorno. Ciò non toglie che se esistono delfinari o posti di questo tipo per recuperare animali in difficoltà, malati, cacciati, le cose, per poi reinserirli in natura, ben vengano, centinaia centinaia a tutti quelli che servono. Se servono solamente per scopo di intrattenimento, vabbè, per certo, pigliare soldi e vivono una vita infernale, assolutamente no. Fra poco. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Notizie a quattro zampe. Amanti dei cani, siamo per parlare di una cosa fondamentale per prepararci bene l'anno prossimo. C'è stata un mese fa un evento che si tiene in Cina tutti gli anni che deve assolutamente avere fine. Rosita Celentano adesso vi racconta un po'. Rosita Celentano, sono una straniera. Insomma, volevo dare un tono. Purtroppo Cina, Festival della Carne di Cane di Yulin, fermiamo la strage. Allora, ogni anno migliaia di cani, lo sapete credo, vengono uccisi e cucinati a Yulin in occasione del festival tradizionale per il solstizio d'estate. Ora, io vorrei un attimo far capire, il solstizio d'estate è il giorno più lungo dell'anno, uh-huh, ed è il 21 giugno. In questa occasione si celebrano il sole e la luce, simbolo di divinità positive al centro di tutte le religioni delle antiche civiltà. Diverse culture celebrano tutt'oggi il solstizio d'estate, però Yulin come pensa di celebrarlo? In un modo inquietante. Allora, al sud del paese, Yulin, ogni 21 giugno praticamente ammazza 10.000 cani. Perché mangiano carne di cane. La cosa più... Cioè, se andate su Google e mettete Yulin sì, Festival, Dogmeat... Io lo sto portando questa notizia da lifegate.it. Ecco, le immagini sono raccapriccianti. Primo perché il trasporto di questi animali avviene in gabbie un po' raffazzonate, come fossero, ma peggio dalle galline, perché sono letteralmente ammassati, cioè sì, uno, esatto, addosso all'altro. Ce ne sono alcuni che muoiono perché altri cani gli stanno addosso. Sì, poi vengono uccisi spesso in maniera sommaria, no? Quindi prese a bastonate, cucinati, a volte vengono messi addirittura ancora vivi sui, sì, braceri ardenti. Sui braceri oppure nell'acqua bollente. La cosa allucinante è che questo piatto tradizionale della cultura cinese si crede che migliori la fertilità maschile e allontani gli spiriti maligni e le malattie. Ma è possibile, certo, che così stronzo l'uomo tutta la vita? Come quando la mattanza dei delfini a 18 anni per dimostrare che sei forte e coraggioso, come queste schifezze di corride? Direi che senza palle sei prima di fare sta cosa e senza palle rimani quando hai finito. Comunque, allora, c'è un'associazione per il benessere degli animali, Duo, che ha lanciato questa petizione su charge, scritto charge.org. I cani sono spesso scuoiati e appesi, cotti, semicotti, in bancarelle, in questa piazza per mangiare. La cosa principale è la sofferenza che questi cani hanno da vivi. Guardate qualche filmato, andate una volta, non perché dobbiate semplicemente, cioè deve portarvi all'azione, conoscere che cosa fanno questi cani, e dobbiamo prepararci per l'anno prossimo, raccogliere ancora più firme. So anche che ci sono dei personaggi famosi, no? Aspetta, però scusami un secondo, prima dei personaggi famosi voglio dire una cosa. Il membro di questa associazione Duo, Andrea Gung, ha detto: ho visto cani scodinzolare fino all'ultimo prima di essere macellati. La fiducia che i cani ripongono negli esseri umani è molto più grande che degli altri animali. Mangiarli è un atto di tradimento. Fra l'altro, per inciso, quest'articolo dice anche che c'è un pericolo per la salute, perché questi cani sono cani presi dovunque, sono cani randagi, non sono curati e spesso vengono avvelenati con sostanze chimiche e poi cucinati e mangiati. Mangiateli sti cani. Comunque, grazie al cielo, invece c'è una parte della Cina che si vuole dissociare da questa barbarie, da questa roba. Io questa cosa non le capisco, perché basterebbe una legge, cioè si vieta a Yulin il festival, punto. Cioè non c'è bisogno di fare la campagna con Schwarzenegger e via dicendo, che poi è una campagna generale, questa non riguarda, credo, Yulin. No, riguarda anche il consumo quello, di carne in generale. Cioè, okay. Il 50% di ridurre la carne, la Cina ha chiesto a dei personaggi come Arnold Schwarzenegger, come James Cameron, poi c'è un appello anche di Matt Damon e Joaquin Phoenix, invece Matt Damon e Joaquin Phoenix proprio per chiudere questa barbarie di Yulin. Sentiamoci adesso le parole di James Cameron e Schwarzenegger. The second biggest sector for production of greenhouse gases. Il secondo settore per produzione di gas serra è quello dell'allevamento. Allora mi sono chiesto, come posso credere di essere un ambientalista quando con la mia alimentazione sto contribuendo al peggioramento dell'ambiente? Più prove fisiche facevo e più mi sentivo dire dai dottori che dovevo smettere di mangiare carne. Io lo sto facendo gradualmente e posso dirvi una cosa, mi sento la grande. Meno carne, meno effetto serra, più vita. La prima cosa che puoi fare è ridurre o smettere di consumare carne. Non fa bene alla tua salute e nemmeno all'ambiente. Se ti dicono che devi mangiare più carne per essere forte, tu non crederci. Ciò che la Cina vuol fare con questo annuncio, ridurre il consumo di carne del 50%, va rispettato, perché è una posizione di leadership. Si tratta di cooperazione internazionale per risolvere i problemi del mondo. Dobbiamo considerare il mondo come un tutt'uno, di cui tutti noi facciamo parte. Piatti e ciotole. E dunque, visto che abbiamo parlato, no, di diminuire il consumo di carne, del festival di Yulin in cui si ammazzano 10.000 cani ogni anno, e dell'intervento di Schwarzenegger, come si chiama? James Cameron, che è regista tra le altre cose di Avatar. Stanno intervenendo, no, insieme alla Cina per abbassare il consumo di carne. Noi diciamo che abbassarlo non basta, bisogna eliminarlo. Io dicevo prima, basterebbe una legge, sì, per dire basta carne a Yulin. Però per fare questo ci viene come sempre in aiuto la nostra Mara di Noia con i suoi piatti strepitosi su base vegetale, che vanno bene sia per i cani che per le persone, i nostri animali, la nostra pappa condivisa. Mara, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Ciao carissima, come ci delizi oggi che è l'ultima puntata di Chiedimi se sono felice? Cosa hai pensato di fare? Allora, oggi, visto che l'ultima puntata, mi sembrava carino proporre un dolcetto che è adatto a tutta la famiglia, con degli zuccheri buoni, nel senso che stiamo attenti a limitare il consumo di prodotti animali, ma anche gli zuccheri, diciamo, per quanto riguarda la salute, sono importanti soprattutto per i nostri animali. E quindi questo dolcetto è molto semplice, ma sfiziosissimo. Vi servono 200 grammi di anacardi al naturale, 100 ml di acqua, mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere, 4-6 manciate di frutti di bosco, 2 manciate delle vostre noci preferite e dello sciroppo di acero. Per preparare questa crema di anacardi, che avrà la consistenza della crema al mascarpone, pur avendo un, diciamo, gusto differente, dovete metterli a bagno per circa 2 ore in acqua fredda. Gli anacardi, poi, una volta scolati dal loro liquido, devono essere inseriti in un frullatore abbastanza potente, aggiungere un pochino d'acqua e la vaniglia in polvere, azionare il frullatore fino a ottenere una crema di una consistenza liscia. Quindi per qualche minuto bisogna frullare, magari togliendo con una spatola la crema che si ferma sul bordo del frullatore. Chi cucina lo sa che ci vuole un po' di pazienza. Posso sapere che tipo di frullatore, visto che ne esistono mille tipi e non si capisce mai? Allora, io in questo momento sviluppo un frullatore, sono, diciamo, consulente tecnico di Bugatti, per cui utilizzo Vento, però qualsiasi tipo di frullatore ad alta potenza è sicuramente adatto a frullare soprattutto i semi, perché i semi sono problematici, perché se si frulla per un periodo troppo lungo, per un tempo troppo lungo, si deteriorano gli oli contenuti nella frutta secca e quindi ci vogliono dei frullatori insomma, potenti. Ah, bene, bene, bene. Quindi? Allora, quindi, mettere gli anacardi scolati nel frullatore, ve l'ho già detto. Quindi, cosa facciamo? Prepariamo i vasetti alternando questa crema di anacardi alla frutta secca, alla frutta fresca, scusate, aggiungere le noci sminuzzate in sommità e possiamo condire con qualche fiocco d'avena. Aggiungere, se si desidera, anche dello sciroppo di acero, che, come vi dicevo, è uno zucchero di ottima qualità, non contiene saccarosio, è un prodotto che viene, diciamo, offerto spontaneamente dalla natura e raccolto, ha l'unico inconveniente di essere un po' caro, quindi lo utilizziamo, insomma, in ricette particolari. Ma non si può usare il miele eventualmente? Allora, il miele è un ottimo dolcificante. L'unica cosa che io dico alle persone che vogliono continuare a utilizzare il miele è di valutarne bene la provenienza, perché non stiamo lì a fare sofismi su miele sì, miele no, ma le nostre api stanno scomparendo, per cui ci stanno dicendo gli scienziati che una volta scomparse le api noi avremo pochissimi anni di vita su questo pianeta, per cui facciamo estrema attenzione alla provenienza del miele, perché lo sfruttamento delle api, così come quello di tutti gli altri animali, è dannoso per il pianeta, per cui facciamo attenzione al tipo di produzione che andiamo ad acquistare, diventiamo più consapevoli anche per quanto riguarda il miele. Bene, bene o male, grazie di questa chiarificazione. E questo dolcetto, se riuscite a conservarlo, si conserva per 2 giorni, se no dura pochissimo. Bene, in frigo, suppongo. In frigo, ma ti assicuro, Rosita, che non ci arriva il frigo. Non ci arriva, voglio vedere, adesso voglio provare. Adesso quest'estate con calma proverò tutte le tue ricette. Ci ricordi del tuo sito e della pagina Facebook? Allora, il mio sito è www.vegaschef.it e la mia pagina Facebook è Vegaschef. Non è detto, cari ascoltatori, che non troverete me e Mara qua e là nell'etere da qualche parte. Nell'etere. Ci stiamo organizzando per fare delle cose turche. No, per cucinare i sogni. Per cucinare i sogni, brava. Poi uscirà un tuo libro, no? Quando esce il tuo prossimo libro? Allora, questo libro è un parto, ma uscirà tra poche settimane, ricette per la mia famiglia e altri animali. Benissimo. Bene, grazie Mara che sei stata con noi. Grazie Mara Di Noia. Grazie a voi. Un abbraccio, buone vacanze, ma noi ci sentiremo prima. Va bene, bacio a tutti. Ciao, buona domenica. Dunque siamo arrivati, stiamo chiudendo. L'ultima puntata. Io direi che possiamo fare una ricapitolazione, cioè per chi ci ha seguito per un anno intero o chi per esempio si è collegato soltanto oggi a sentirci, no? Abbiamo parlato di tango argentino, abbiamo parlato di sabbia, sì, di muratura, di ingegneria genetica. Esatto. Allora, abbiamo parlato di come si rende felice il cane e abbiamo imparato dai cani e degli animali a rendere felice noi stessi, perché abbiamo bisogni comuni. Sì. Allora, io approfitterei, cara la mia Rosita, di prendere un libro che a te è piaciuto molto. Moltissimo. Di come si legge l'autore? È scritto Mies van Hout, è un pittore e ha fatto un libro bellissimo, un disegnatore, bravi, un illustratore, ha fatto un bellissimo libro dal titolo L'amore è tre puntini per Lemniscat. È un libro che parla appunto dell'amore, ma facendo soltanto delle parole chiave. Ci sono delle parole chiave con dei disegni. Esatto, l'amore è desiderare. Cosa ti fa venire in mente poi questo disegno? Perché desiderare è quando noi vogliamo qualcosa che non è presente nella nostra vita, no? Quindi tanti di noi, quando cominciano la relazione con il proprio cane, desiderano un cane e si immaginano spesso delle belle distese in cui andare in giro con il proprio cane, il proprio cane affettuoso, un'intesa perfetta. Sappiamo però che questa cosa va costruita. Desiderare però io ricordo anche che equivale a fare una buona adozione, cioè noi non ci dobbiamo chiedere cosa può fare il cane per noi, o meglio ce lo possiamo chiedere, ma la cosa meno importante, la cosa invece più importante è chiederci cosa possiamo fare noi per quel cane, ed è così che comincia una grande avventura piena di soddisfazione. Però adesso facciamo una pausa e dopo vi spieghiamo quale altro amore è. Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali, basta un autoradio digitale. DAB Plus, chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. anche Radio 24 è in digital radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Allora, abbiamo un libro bellissimo che si intitola L'amore è, di cui vi ha parlato prima Angelo, che elenca una serie di parole, ha delle belle immagini, prendetelo, però la cosa che a noi ha colpito per parlare nell'ultima puntata è che queste parole sono tutte inerenti a quello di cui noi abbiamo parlato per un anno, esatto, nella relazione con il cane. Allora, la seconda parola... Cosa che rende felice il nostro cane? La seconda parola è... Sperare. Sperare e speriamo che questo cane sia bravo, speriamo di essere all'altezza. Noi, sì, no? Esatto. Quindi è il campo delle aspettative. E noi sappiamo che il nostro cane è felice a seconda delle aspettative. I rituali che noi creiamo con lui, per esempio, il rituale dell'uscita, il rituale della pappa, il rituale del ritorno, sono tutte cose che si formano grazie alle aspettative. Cioè il cane, quando noi andiamo via di casa, spera che noi torniamo presto. Sì, a me viene in mente sui rituali il passo meraviglioso del Piccolo Principe, di quando la volpe gli dice... Bellissimo, andatevelo a leggere, il momento cosa della dice, volpe e Piccolo Principe. No, non voglio svelarlo, ma andatelo a vedere perché è meraviglioso. Un'altra parola è attendere. Attendere, che in questo libro equivale all'attesa del parto. Cioè, l'illustrazione fa vedere un uccello che sta covando le sue uova con già i pulcini dentro, no? Quindi attendere significa saper aspettare. Certo. Saper aspettare e saper Avere pazienza. Avere pazienza, che tra l'altro è uno dei punti dopo. Cioè significa, io pongo delle buone cause e devo essere paziente, ne vedrò gli effetti dopo. Sì, perché se saprò attendere avrò degli effetti positivi che migliorano, sì, la mia vita e quindi, sì, la mia serenità e la serenità dell'animale. Cioè quando noi adottiamo un cane non possiamo aspettarci che sia immediatamente bravo. Capita a volte, però altre volte c'è il processo di educazione. Educazione significa exducere, tirar fuori il potenziale del cane, e questo presuppone tempo. Attendere è anche qualcosa che riguarda i nostri cani, perché loro devono imparare ad attendere. Cioè l'attesa è un esercizio. Per esempio, se tu sei abituato a far sedere il cane e poi lanciargli una pallina, puoi fare in modo che invece di lanciare la pallina immediatamente puoi aspettare un po', così che il tuo cane si abitui ad aspettare, incrementando così le sue facoltà cognitive, la flessibilità cognitiva e quindi il fatto che lui diventi un cane più intelligente. Bellissimo. Un'altra parola è stupirsi. Io mi stupisco ogni volta che incrocio lo sguardo di un animale, di qualunque animale, ma in modo particolare dei nostri cani che vivono con noi, perché spesso arrivo a una giornata stravolta a casa, oppure sono arrabbiata, è andato male qualcosa o sto male per qualcosa, qualche situazione, appena incrocio il loro sguardo mi stupisco sempre di come loro riescano a essere sempre disponibili. In questo caso l'illustrazione del libro fa vedere finalmente la mamma uccello che guarda il pulcino che è appena venuto fuori dall'uovo, no? E stupirsi significa guardare le cose come fosse la prima volta, essere qui nel momento. Quindi dobbiamo esercitarsi a fare questo, non mettere un'etichetta al nostro cane. Io mi ricordo quando ho fatto cambio cane, no? Che facevo scambiare un cane, lo mandavo in vacanza in una famiglia e l'altro nell'altra famiglia, e dicevo loro: avete un'occasione, questo cane è anche un'occasione, perché non viene guardato attraverso i soliti filtri. Non dite questo cane è stupido, questo cane è aggressivo, questo cane è fobico. Avete un cane nuovo, potete guardarlo con occhi nuovi, quello che dovreste fare tutta la vita con il vostro stesso cane. Che poi i cani ci insegnano anche questo, perché quando andiamo in passeggiata con loro, molti cani si stupiscono di quello che hanno intorno, sono molto più freschi mentalmente. Poi si stupiscono sempre. Poi vorrei dire che tutto questo di cui noi stiamo parlando nel rapporto col cane vale anche nel rapporto fra noi esseri umani, con i figli, fra fidanzati, marito e moglie, con i fratelli, con gli amici. Vale veramente proprio una filosofia di vita. Nutrire. Quante volte abbiamo parlato di alimentazione, sì, che è uno dei tuoi argomenti favoriti, no? Abbiamo, sì, intervistato poche settimane fa Franco Berrino, che è un'istituzione, un luminare, no? della nutrizione. Noi abbiamo ospitato nelle ultime settimane Mara Di Noia, che ci parla di alimentazione su base vegetale. Ma nutrire significa nutrire l'amore anche. Nutrire l'anima anche. Cioè il nutrimento che passa attraverso il cibo può essere fatto appunto con amore, cioè preparare cose con amore, in modo che passi non soltanto le molecole di cibo, ma, certo, passi anche del sentimento. Preparare la nostra pappa per il cane significa farlo partecipe di questo rito alimentare, ed è qualcosa che ci lega. Nutrire però significa anche, come abbiamo detto molte volte, che molte delle nostre attitudini, quello che noi insegniamo ai nostri cani, i nostri sentimenti, possono essere nutriti. Certo. Sai quando diciamo le emozioni possono essere allenate? Allora, se io voglio il cane felice o voglio essere io felice, quello che dovrò fare è che dovrò frequentare situazioni, comporre situazioni e fare attività che nutrano la felicità, perché il nostro cervello svilupperà dei circuiti neurali che sono preposti alla felicità. Quindi nutrire non è soltanto cibo, no, nutrire, certo, è anche coltivare le attitudini corrette, le attitudini buone, nutrire delle buone abitudini, nutrire della buona nutrire tutto. Abbiamo detto, tra l'altro, a proposito di nutrizione, che l'alimentazione migliore per la nostra salute, quella che salvaguarda il pianeta, è quella su base vegetale. Sì, cioè bisognerebbe eliminare, sì, il consumo oramai di carne, non ci sono proprio più latticini. Dubbi. Allora, un'altra parola è confortare. Bellissima anche questa. Io, allora, conforto, eh? Tu conforti, sei una persona che conforta, io conforto? Sì, sì, sì. Sei protettivo. Sono protettivo. Allora, confortare è una cosa buona. Quante volte noi ci rendiamo conto che quando stiamo male moralmente o fisicamente i nostri cani se ne accorgono, e a volte se ne accorgono prima, con una qualità di presenza migliore rispetto ad altri esseri umani. Sono questo molto perché sono garbati, sono molto misurati. Si accorgono. Questo significa che hanno un alto livello di empatia, no? I nostri cani, abbiamo studiato, abbiamo visto in questo anno, che hanno un'anatomia cerebrale fatta proprio per essere empatici. E confortare significa anche ricerca di prossimità, di stare vicino. È presente la base sicura, le gambe d'attaccamento. Sì. Dobbiamo lasciare che i nostri cani lo facciano. Quando il nostro cane è spaventato, non dobbiamo far finta di nulla, come ci dicono i behavioristi, non dobbiamo ignorarlo, come ci dicono i behavioristi, per non rinforzare. Al contrario, dobbiamo permettergli di stare vicino a noi. Quello che non dobbiamo fare mentre confortiamo è sconfortare noi stessi. Cioè dobbiamo essere leader emotivi, dobbiamo stare bene e nel frattempo dire: me ne sono accorto, hai bisogno di me, ci sono. Beh, fantastico. Vaira, quando parla così quasi quasi mi fa innamorare, guarda. Accudire. Accudire. A te cosa viene in mente? Guarda, bellissima questa cosa qua, no? Beh, prendersi cura sulla... di prendere, volere il tuo bene, il tuo benessere prima del mio, la tua felicità, esatto, prima della mia, ovviamente. È quello, cioè, è quello con cui abbiamo aperto, no? Poi prima... scusami, poi se io ti voglio bene e quindi mi preoccupo del tuo bene prima del mio, in automatico sto bene anch'io, quindi ci si nutre a vicenda, ci si accudisce. Guarda, c'è il mio lama insegnato il buddismo tibetano che dice: ci sono due tipi d'amore, c'è l'amore che dà e l'amore che prende. Infatti l'amore che prende è quello egoista, cioè ti adotto perché tu devi fare un favore a me, ti adotto perché devi fare la guardia, ti adotto per i bambini. No, John Fisher, luminare, istruttore cinofilo londinese, adesso purtroppo non c'è più ma ci ha insegnato tanto, lui dice: togli tutte queste motivazioni, lo prenderesti ancora il cane? Sì. Io quindi lo prenderei sempre il cane. Accudire significa questo. E poi pazientare. Madonna, quante volte dobbiamo avere pazienza con i nostri cani. Cioè, se vogliamo risolvere velocemente i problemi, sì, se vogliamo aiutarli a crescerli, se vogliamo a crescere, se vogliamo aiutarli a rieducare, ad essere a rieducarli, se vogliamo rieducarli, dobbiamo avere pazienza. Io ho imparato la pazienza attraverso i cani, attraverso gli animali ho imparato ad essere più paziente, perché loro sanno aspettare il giusto proprio. Un'altra parola che a me piace da morire è divertirsi. Guarda, questa è veramente fondamentale, perché purtroppo molte delle persone che adottano il cane, che hanno questa visione che noi stiamo portando, vivono il cane soltanto in una dimensione affettiva, ma non è così. I nostri cani ci guardano in attesa di poter fare qualcosa, hanno bisogno giocare. Di divertirsi. Fondamentale per loro è giocare. Dovete giocare. Giocare non significa lanciare una pallina, significa che voi stessi dovete correre insieme al cane e ridere. E poi ascoltare. Ascoltare, possiamo finire, no, con questa parola qua. Sappiamo, uno dei nostri slogan è: un cane che non ascolta è un cane che non è ascoltato. Quindi se il vostro cane non vi ascolta, fatevi delle domande. Saper ascoltare significa essere lì. Insomma, possiamo degnamente concludere questo breve iter di chiusura. E salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato per tutto questo anno, quelli che si sono aggiunti strada facendo, quelli che spero ci ritroveranno i nuovi da settembre in poi. Per noi è stata un'esperienza bellissima, felicissima. Ci avete scritto in tanti, continuate a farlo anche durante le vacanze, perché leggeremo ugualmente le vostre email. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. E noi ci vediamo a settembre. Solo una cosa volevo dire al volo, sì. Grazie perché a Virginia Raggi, che in una delle suoi progetti come sindaco di Roma interromperà questa barbarie legata ai cavalli che trainano le botticelle romane, perché sono cavalli tenuti in condizioni devastanti. 38 casi di violenza accertati. Grazie, benissimo, grazie a tutti. Buona estate, mi raccomando. Buona estate. Ciao.